figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata da Valentina Furlanetto. Oggi andiamo in Congo, dove da 15 anni 20.000 caschi blu dell'ONU non sono ancora riusciti a pacificare la ricchissima regione orientale della Repubblica Democratica del Congo, che resta nelle mani dei ribelli ruandesi, i quali controllano le enormi ricchezze della regione: oro, stagno, diamanti, e ricavano da questi traffici almeno un paio di milioni di dollari all'anno, che garantiscono armi e milizie. Nei campi profughi in questi anni si sono verificati e continuano a verificarsi omicidi e stupri. Cos'è stata allora la più grande missione umanitaria delle Nazioni Unite? Un fallimento. Lo dice l'ONU stesso in un rapporto segreto diffuso qualche giorno fa, senza che siano seguite delle smentite. Su quanto i caschi blu e anche le ONG siano state complici, prima inconsapevoli, poi molto meno, della situazione, il dibattito in realtà è acceso da anni. In Ruanda, nel 1994, l'ignoranza della situazione politica locale spinse le ONG a scambiare gli Hutu per le vittime delle violenze, quando invece scappavano dopo aver massacrato 800.000 connazionali Tutsi in 3 settimane. Gli Hutu, alloggiati, nutriti e vestiti nei campi profughi, ne fecero in breve le loro basi militari. Quasi ogni notte milizie armate Hutu partivano dai campi e facevano ritorno in Ruanda per completare il lavoro di pulizia etnica contro i Tutsi, per poi rifugiarsi di nuovo nello spazio umanitario protetto. Tutto questo è raccontato benissimo dalla giornalista olandese Linda Polman nel suo libro inchiesta L'industria della solidarietà. Il popolo Hutu all'interno dei campi era tenuto sotto stretto controllo da parte del regime. Su tutte le razioni alimentari distribuite dalle organizzazioni umanitarie, il governo Hutu prelevava un'imposta di guerra, con la quale pagava l'esercito. La campagna di sterminio contro il nemico Tutsi in Ruanda poté dunque continuare. Tra gli abitanti del campo, ormai riposati, nutriti e vaccinati, venivano arruolate nuove reclute. Schiacciare uno scarafaggio non è un omicidio, è una misura igienica, sentivo gridare dalle radioline nei campi. Quasi ogni notte le milizie attraversavano il confine e tornavano in Ruanda a caccia di Tutsi. Colpivano senza pietà anche i Tutsi zairesi nati a Goma. Centinaia di Tutsi scomparvero o furono ritrovati morti con una pallottola nel cuore o la gola tagliata. Secondo le stime di alcune ONG, in media, il 60% di tutti gli aiuti umanitari distribuiti veniva rubato dalle milizie. Una parte era utilizzata dalle milizie stesse, un'altra parte veniva rivenduta alla popolazione civile, rifugiata nel campo. Nei mercatini all'interno del campo erano in vendita scatole di sardine con la stampigliatura Gift from Japan, oltre a montagne di taniche di benzina rubate, stuoie, coperte, sapone e medicine. Preoccupate dalla pubblicità negativa e dal rischio di tagli ai fondi, le ONG non fecero grande pubblicità al furto di aiuti. La situazione era talmente fuori controllo che nel dicembre 1994 Medici Senza Frontiere Francia decise, per queste ambiguità, di andarsene da Goma. Il rapporto ONU accusa oggi alcune organizzazioni non governative spagnole di finanziare i ribelli ruandesi Hutu che combattono contro il governo di Kigali, dominato dai Tutsi. Anche 2 missionari italiani della Congregazione dei Missionari Saveriani, padre Franco Bordignon e padre Pier Giorgio Lanaro, vengono citati. Sentiamo uno dei missionari di Bukavu che ha chiesto però l'anonimato. Noi non abbiamo ancora nessun documento ufficiale, per cui ci esteniamo da ogni commento fino a quando non abbiamo i dati esatti in mano nostra. Voi vi occupate di aiuti umanitari? Esattamente, sì. E che cosa fate esattamente? Cibo, dunque viveri, coperte, medicine, attrezzi per lavorare i campi, sono quelle cose lì, gli aiuti umanitari. E quindi proprio ne sono passati a milioni, e quindi i nostri aiuti sono sempre andati in quel senso lì. Se poi qualcuno li vuole camuffare sotto altri scopi, perché devi annegare il cane perché c'è la rabbia, è chiaro che devi inventare le cose, oppure travisare le cose, che è ancora peggio. Queste accuse secondo lei sono pilotate? Ah, beh, lo sa, la Chiesa qui è l'unica che fa, come si dice, che dice pane al pane, e allora in quel senso lì a volte può dar fastidio a qualcuno. Ma a chi avete portato questi aiuti e quando? Sono almeno 15 anni che ormai abbiamo profughi regolarmente che vanno e che vengono, quindi i nostri aiuti sono sempre stati in favore dei profughi in quel senso lì. Profughi di tutte le etnie, Hutu, Tutsi, insomma non distinguete? Ah, sì, non si fa distinzione né di tribù, né di etnia, né di religione. Questa non distinzione però nel 94 ha portato degli equivoci, anche se in buona fede, a non distinguere i massacrati dai massacratori. Lì non si può fare un'amalgama di cose, perché bambini che hanno 2 o 3 anni è difficile pensare che abbiano sparato, o donne con carico di bambini che fuggono così, quindi non si sono aiutati i belligeranti, si sono aiutati, tra l'altro i belligeranti non facevano parte del gruppo degli aiuti perché era l'ONU che se ne occupava, ma nei campi profughi c'erano solamente i civili, donne, uomini e bambini, ma civili, non militari. E quelli lì il mondo intero li ha aiutati, perché qui c'erano più di 30 associazioni umanitarie che intervenivano, lavoravano. Comunque lei dice voi fornite medicine, aiuti pratici, non finanziamenti in dollari o in denaro. No, non abbiamo mai finanziato niente in liquidi. Noi gli aiuti che abbiamo dato di carattere umanitario, ma quello possiamo dirlo da 50 anni a questa parte, perché è una zona frontaliera, quindi ci sono sempre stati vari vieni di qua e di là. Li abbiamo sempre dati solamente in genere alimentari, in coperte, utensili da cucina e utensili per coltivare la terra, sementi, quelle cose lì, non di più di quello. A pagina 31 del rapporto dell'ONU si legge però di collegamenti diretti fra padre Pier Giorgio Lanaro e il presidente del Fronte Democratico per la Liberazione del Ruanda, Ignace Muruana Siaka, finito in carcere in Germania 10 giorni fa, accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, oltre che di stupro. Secondo il rapporto, il missionario avrebbe deliberatamente dirottato ai combattenti del fronte fondi raccolti in Europa dalla sua congregazione per sostenere le popolazioni profughe ruandesi. Noi abbiamo sentito padre Alberto Lanaro, fratello di Pier Giorgio. Mio fratello sì, aiuta queste persone che sono fuggite nel 94, e una parte di queste ha anche aiutato quando i Tutsi di Kagame hanno cercato, mi pare nel 96-97, di rovesciare da Matadi il Kabila, il vecchio, che era presidente. Sono stati forniti di armi per combattere questa controrivoluzione. I rifugiati Hutu sono soprattutto Hutu ruandesi, ex militari, possiamo dire, dell'esercito, cercano di vivere in Congo, nel senso che ritornare a Ruanda come vorrebbero, vorrebbe dire cambiare il sistema governativo. Le cose sono un po' complesse, se vuole. Il mio fratello, dovendoci trovare queste persone che le ha seguite come assistenza spirituale, le ha aiutate un pochino anche a installarsi, dando loro la possibilità di fare una piccola strada che li collega con la piana, perché era in montagna. Ma ha raccolto anche fondi per loro? Certo, li ho mandati anch'io, dei fondi proprio come aiuto umanitario. Persona, non quanto al fronte, poi quelli facevano parte, alcuni c'erano anche, facevano parte di questo fondo. Allora cosa bisogna fare, vede? Perché quando ci sono gente ammalata, che siano ribelli, che siano soldati in compagnia, noi curiamo il malato. In questo senso, l'ho fatto anch'io in cosa, mi hanno accusato anch'io di essere come si chiama quando ero in Burundi, di appoggiare la insurrezione armata. Dopo questa ricca pagina sulla Repubblica Democratica del Congo e anche sulle ambiguità e la difficoltà di portare un vero e proprio aiuto umanitario in situazioni di guerra, non fra eserciti regolamentari ma in una guerra civile, passiamo all'Italia. All'Italia e a temi leggermente più ameni, perché vogliamo presentarvi la Michelin dei poveri. Si tratta di una guida pubblicata dalla comunità di Sant'Egidio a Roma, dove sono segnalate 27 mense, 34 dormitori, 24 ambulatori, 12 luoghi dove lavarsi e 96 centri d'ascolto della capitale. Una guida che, con amara ironia, vuole porre un po' sotto i riflettori il problema di 7.000 persone solo nella capitale, 7.000 persone che vivono senza fissa dimora. 2.500 sono ospiti dei centri di accoglienza, accoglienza, 4.500 vivono per strada. Il 70% di questi sono stranieri, con un crescente numero di afghani. Teoricamente sono rifugiati politici, ma spesso sono trattati come dei clandestini. Ed è crescente anche il numero di italiani che si mettono in fila per i pacchi alimentari gratuiti. Abbiamo parlato con Mario Marazziti, portavoce della comunità di Sant'Egidio. Sono 20 anni, 20 edizioni ogni anno, tutti gli indirizzi verificati per provare a vivere in una grande città come Roma per chi non ha niente o ha pochissimo, perché se si sbaglia un indirizzo quando si ha fame, quando non si ha riparo, quando si ha bisogno di cure, potrebbe essere un viaggio letale. Per questo è verificata fino all'ultimo minuto e con la provincia di Roma sarà distribuita non solo nel nostro pranzo di Natale in tutta Roma, con il giorno di Natale con i poveri, ma sarà soprattutto distribuita anche presso la mensa e i centri che noi abbiamo a Roma, sarà nelle tasche di chi vive per strada, sarà nelle mani degli assistenti sociali, delle parrocchie, e in questo modo si scopre una città dove è possibile vivere grazie a una solidarietà che è pulviscolare, ma che c'è, e quindi tutte le sere a Roma c'è qualcuno che porta dei pasti caldi in più di 30 punti nella città, c'è una rete di solidarietà, questo altrimenti anche Roma diventerebbe una città invivibile. Sono aumentati i casi di poveri? Chi aumenta sia a Roma che in Italia non sono, diciamo, quelli che vivono in strada, i poveri estremi, la povertà assoluta, aumenta la povertà normale. Per farle un esempio, al telefono delle richieste urgenti della comunità di Sant'Egidio, dallo scorso anno a quest'anno, ogni 1.000 telefonate, l'anno scorso erano 180, quest'anno sono 380, siamo quasi al 40% di richieste economiche per crisi improvvise, vuol dire una malattia che non si può pagare, vuol dire le spese che vengono dall'iscrizione all'università dei figli, oppure semplicemente da spese ordinarie dell'affitto che non si può pagare, cioè sono famiglie normali. Questa è la nuova e ormai vecchia povertà che cresce in Italia. È una crisi che riguarda veramente le persone normali, cioè quelli che non vanno neanche nei centri di aiuto, che non chiedono, che non sono nel circuito delle mense, ma che hanno uno stato esecutivo, che hanno un lavoro, ma magari sono due nuclei familiari che si sono riuniti dopo un matrimonio andato a male, e così via. La nostra puntata termina qui, grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto, io vi auguro una buona giornata e vi rinnovo l'appuntamento per domenica prossima alle 14.05, sempre sulle frequenze di Radio 24, il Sole 24 Ore. Buon pomeriggio a tutti da Valentina Furlanetto.